Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Pane, Latte e Lacrime di Veronica Liberale, regia di Cristiana Vaccaro, con Franco Barbero, Camilla Bianchini, Antonia Di Francesco, Veronica Liberale, Francesca Pausilli, Giada Prandi, Andrea Venditti. E con occhio caldo poi cerchiamo di indovinare. Allora, io mi chiamo Franco. Sono nato nel 1939, in via dei Sorbelli 19, interno 34, quarto piano. A quei tempi che avevo 4 anni. Sono cose che ti rimangono impresse. Il 19 luglio del 43 mia zia mi stava facendo il bagno nella bagnarola, perché era quello che ci avevamo qui dentro. Tutto un botto ho sentito dei botti e gli dissi a mia zia: zia Ida, ma che festa è oggi? Eh sì, è la festa. E mentre diceva questo mi ha portato nell'asciugamano e di corsa mi ha portato giù nel rovero. Ho visto delle persone insanguinate col sangue sul viso. E da allora ho avuto problemi con gli orecchi e con la vista. Fatto sta che sull'occhio sinistro ci vedo poco e ha cominciato a portare gli occhiali. Ma io spero che quei ricordi non vengano più, perché sono bruttissimi. Ciao! Posso parlare? Era il 19 luglio, il bombardamento di San Lorenzo, io ero sul terrazzo dell'edificio di casa mia e stavo con mia nonna, e a un certo punto le bombe che suonavano, cosa, mia nonna mi ha messo sotto una porta per proteggermi, forse lei intendeva quello, non so. Io a un certo punto avevo paura, tutto quanto, sentivo lo stimolo di fare la pipì e uscivo, poi rientravo e poi dopo un po' riuscivo e rientravo. È stato un trauma fortissimo. Io da allora questo trauma mi è rimasto sempre e non ho ogni due minuti a fare pipì. Devo comprare un vestito elegante. E il rossetto. E la cipria col piumino di cigno, come quella che c'ha mamma. E il cappellino, con la frutta e i fiori finti, come quella di mamma. Devo andare a cantare stasera all'Ambra Giovinelli. Canto stasera e mi servono i soldi per comprarmi un vestito nuovo, col rossetto e la cipria col piumino di cigno, come quella che c'ha mamma. Vabbè. Ehi, i soldi non le dita. Buongiorno, dottore. Ehi, ciao Umberto, come va? E c'è Angeletta, vi dà fastidio? Ma no. Angeletta, non date fastidio al dottore, E voi, dottore, non date niente, che questa becca da tutta San Lorenzo. Ah, sì, Angeletta, vieni da nate, perché si ti trovano più a fare le nozze, ad affari tua. Chi? Quelli che cantano giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza. Bravo. Invece, Umberto, amici sua, cantano di popolo! Ma che volta? Sì! Oh! Zitta! Guarda che sette beccano con quelli non si scherza. C'è niente a vivere. Vivere senza malinconia. Vivere senza gelosia. Ma gente, chiamo l'uomo nero! No! L'uomo nero! E la sciroccata, ti facessi c'ha paura dell'uomo nero. Cosa le è accaduto, povera ragazza? Niente, dottore, è una pietra ballerina. Ah, c'ha tutti i figli di qualcuno, eh. Ah, ma figlia di una ballerina. Però la pietra ballerina nel senso che la madre faceva la ballerina, lavorava col padre che faceva il castonettiere, c'erano una specie di baraccone a piazza Pepe. E Angeletta la cantava con lui. Poi hanno aperto la barriga minelli e sono andati a cantare là. Poi è arrivato il fascismo, quel fascismo è arrivata la censura e come le altre compagnie hanno perso il lavoro. E poi cosa è successo? A chi? Ma alla ragazza e ai suoi genitori. Ah, e che è successo, dottore? Perché Angeletta è rimasta sola, i genitori sono morti. Ha continuato a cantare, cantava pure qui a Cinema Palazzo. Poi hanno cacciato pure da là. E niente, è diventata strana, ha cominciato a dire cose senza senso. Ma non riconosce più la gente. Parlava così, cantava tutto il giorno e basta. C'è una bambina piccola, a Via dei Campani. Di chi sta parlando? Niente, tutto. Io a te, tu dici che non sta adesso. E non si è mai capita la cagione della perdita del di lei il ragionamento. Dottor, bisogna che qua mi parla l'italiano normale, perché sennò io se non lo devo fare non mi capisco. Cioè non si è mai capito per quale motivo la ragazza è impazzita. Ah, così! Sembri che c'è già di mezzo un uomo, un tedesco, una che l'andava a spettare cantare tutte le sere a teatro. Sembri che si sia approfittato di lei, che si sia fatta affari su, hai capito, dottor? Poi è sparito un po' e è tornata che era così, pure. E adesso? Adesso sta lì, canta tutto il giorno, dice che deve andare a cantare l'Ambra di Luminelli, che deve andare a trovare questa ragazzina a Via dei Campani, ma è no, qua, dottor. Anzi, le posso dire una cosa, che c'è un po' che dice cose di te. Sembra che tutti i sette di noi che siamo normali, lo sa? Bisognerebbe capire chi è il vero depositario della verità. C'ha ragione, dottor. Ma io sto deposito non lo conosco, però io lo so. Qui a Angeletta io volevo tutti bene. Che storia struggente e triste. Non muore io, dottor. A me mi si stringe il cuore certe volte, guarda. I mortacci vostri! Ma tanto le becco, dannate, sti gran figli, la buona donna sta andando a mamma. E niente, dottor, mi scusi, ma sono sti ragazzini che si vanno a campagna a banana e mi tornano tutti insaccherati. Mi lasciano davanti al camposanto, di tutte le rane, le rocche, le lucertole e le zoccole, sono assunta. Buongiorno, signora Assunta. Se parlava di dopi. Mi servono i soldi. Sapessi a me. Devo comprare un vestito elegante. Beh, da te, io ho solo sto coso, me lo so già rigirato tre volte. Devo andare a cantare stasera all'Ambra Giovinelli. Come dannate le ragazzine che c'ho da lavorare? Forza signori, oggi fiori di campo e rose, venite! E sa che la signora Assunta si è rimasta male. C'ha la coda di paglia. E te credo, lo sanno pure i cipressi del piano che prima di sposarsi faceva la coperta. La coperta? E questa strilla la coperta. Ma penso che il marito neanche se ne è mai accorto che le faceva la coperta. E poi che fine ha fatto sta coperta? Che coperta? La coperta che la signora Assunta cuciva. Ma dottor, ma lei scherza a far succedere? No, dico, sarà pure il suo dottorone, però. Professorone. E vabbè, sarà pure il suo professorone, però. Che professorone. Ma non ce l'ha ci lavorate a Piazza dei Cessi all'università, voi? Sì, lavoro all'università, ma come semplice impiegato di concerto. Appunto, dico semplice impiegato di concerto, come lei che mi casca sulla coperta. Forza! Qui sono più belli, dritti e freschi, che quelli mosci, non ce li volevo. Volevo? Ma insomma, di che si può sapere di che coperta parlate? La coperta, nel senso che la tua assunta di Scala Domezza San Lorenzo. Con la coperta! E posso con la coperta! Ho capito, la signora assunta è una brava donna. La signora assunta batte bene. La signora assunta fa... Ah, i servizietti! Allora assunta fa i servizietti! Devi star zitta, devi star zitta! Oh, dico tutto! Sì, ma sempre zitta che la... Ah, vabbè, adesso ho capito, certo. Oh, in fondo stiamo parlando del mestiere più antico del mondo. Sì, però, Simbri, che anche adesso... Anche adesso cosa? Simbri, la signora Assunta ha ben aperto l'attività per prendere degli appuntamenti. E affrettatevi con sta bella rosa, se no sta via qualcun altro, eh? Ah, no. Ci posso credere, la signora Assunta è una donna sposata. No, e sembri pure che l'attività vada abbastanza bene. Appunto gli studenti, dico, ma chi lo dice? Si sa, dice pure qui il marito, da quando l'hanno richiamato alle armi, lei abbia riaperto suddetta attività, capito? Ma sì, ma chi lo dice? Si sa, dottor, si sa. Tutta roba fresca e profumata, roba che fa resuscitare i morti del verano, venite! Vabbè, infine, poi... Chi siamo noi per giudicare? In fondo quelle che noi chiamiamo donne di facili costumi sono molto simili ai grandi poeti che già danno gioia e confortano i uomini meschini e tristi. Niente, niente, dottor, voi volete un po' di gioia e conforto da andare assunta. Non sono il tipo. Forza, dottor, solo mezza lira questo pernazzo di rose di marzo. Ma a luglio! Appunto, sono più pregiate e rare. Rose di marzo a luglio, signori. Mezza lira e passa la paura. Voi, signor, siete interessati all'articolo? Sì, ne? Rose o fiori di campo? Rose. Se volete, da là so pure qualche dente di leone, eh? Così ci fa un bel componimento, se fa. E venite! Ma no, Juane! Ci vediamo al magazzino! A via dei Dalmati! Di fronte al Cassamontaro! Senti un po', vai che mi dai la controllatina al banchetto, che vado un attimo a prendere tutti i deloni del cliente! Sì, ma una cosa di prescia, perché io so controllare pure quella degli ore, non è che posso controllare i banchetti vostri, io so da qua, c'ho un funerale importante! E appunto, mandatevi qualcuno che sono tempi difficili, so. No, allora su quel funerale di monache, sembra che sia venuta a mancare madre Paolina di Villa Mercedes. Grossa perdita, donna di grosso polso. Mi darà il bacchettate su sua mano. Vabbè, pace all'anima sua. Sono un bel iovato. Dottore, sì, visto che voi siete fissato, no, con tutte queste cose del cervello, Se volete dell'asso, ma viola del pensiero. E per voi, giusto, un prezzo speciale. Ma voi sapete, io i fiori li prendo sempre da donna Iole, qua di fronte a un conto aperto, spero comprenderete. Comprendo. Mi sa che a voi più che Iole vi piacciono i gradevoli. Buona giornata, dottor! Beh, Umberto, lo sei anche tu, io i fiori li compro sempre dalla signora Iole. E come no, peccioso! La signora Iole e sua cognata Franca. E a proposito, l'hai visto stamattina? Perché no. Non l'ho ancora incrociato. È strano, perché ancora ci sono visti. Né Iole e nessuna cognata Franca. Vabbè, aspetterò, prima o poi arriverà. E poi che mi arriva, sia Iole che sua cognata Franca. Non capisco questo allusivo cognata Franca. Assunto, dove ci sono pure i San Pietrini, che se non che voluccio per la sua Franca. Ma cosa dici? Ma no, è quel pacchettino di ieri. Ma fa la cognata Franca! No. La signora Franca è una donna per bene, eh? Ma chi ha detto il contrario? Ah, e mia Angeletta ha detto il contrario, allora sì. Sarebbe anche una cosa molto carina, voglio dire, che ci darebbe di male. No, voi siete scapolo. Lei è vedova. Ah, la signora Franca è stata sposata? Eh sì. E io conoscevo pure il marito, e sono male, una bravissima persona, un comune grosso. Onello quando gli è arrivata quella notizia. Quale notizia? E niente, il dottore aveva detto che la Salamanca non poteva aver figli. Adesso ormai è rimasto male, è diventato cagionevole di salute e se n'è andato alla Spagnola. E dove l'aveva conosciuta? La Spagnola, l'influenza. Ah, l'influenza! Cosa, qualcuno si è ferito per colpa della Spagnola? E poi dopo si andava a mangiare tutti da pomidoro. Dopo mangiato tutti al ristorante. Usanza romana, ma perché da voi ci spara non si mangia? Ma che ci spadania, io sono di Stradella, la patria di tutte le fisarmoniche. Allora. Ma è... Ah, che dice sto giornale, dottore? Che dice sempre le stesse cose. I giornali inneggiano al regime e alla guerra. Senti che notizia, a sentire, a leggere il giornale diresti che stiamo vincendo su tutti i fronti, invece bisogna saper leggere tra le righe. Guarda qua, altri aerei nemici abbattuti, bombardato il porto di Bona. E invece? Stiamo che è messa al culo. Bravo, bravo, vedo con piacere che anche tu sai leggere tra le righe. Ma quale righe, dottore? Io sono legge manco normale. Incontri di notte al bar. Vi incontrate di notte tra le bare? Ci incontriamo tra le bare, dottore? No, di notte al bar di Romolo. Ha capito? Sembra che sotto ci sia uno scantinato dove si sta in unità. E dov'è? Sotto al bar di Romolo, sì. Non dire le parole straniere, non dire bar. Lo sai che le parole straniere non si possono usare? Il medico ci ascolta. No, dottore, sono bari, come ho detto bari, che è italiano, è romano e non è straniero. E comunque, sembra che le cose le stiano a mettere male. Ma io non sei credo, dottore, perché Roma non si può bombardare, no? Roma c'è il Papa. Lo dici te. A maggio hanno bombardato Civitavecchia e mi sa che un giorno o l'altro una decisione la prendono, altro che... Speriamo solo che facciano presto, dottore. Mi moglie sa più che mette sulla tavola. Obra! Magari Ova, andiamo avanti a giocare che patate. Obra! Ancora, non ce l'avevo. Polizia fascista, Obra! Angeli, guarda un po' che arriva l'uomo nero. Guarda! Oscio! Stai facendo con l'uomo nero! Bravo, bravo, vienimi dietro adesso, vienimi dietro. Eh? Sì, vienimi dietro. Tipo, vabbè. Ma non così! Con discorso! Allora, caro Umberto, allora mi avete detto che mangiate solo sempre delle patate. Sì, dottor. Ecco, questo vuol dire che voi avete fame. C'ho fame, sì, dottor. Bene, bene, il regime ha bisogno che voi abbiate fame. Lo sai che si muore più facilmente di indigestione che di fame. Quindi tu devi andare avanti a mangiare la zuppa di patate di tua moglie. Sì, signore, sì. Bona! Chi, mi moglie, dottor, una volta, magari, come si fa? Bombardato il porto di Bona, viva la patria! Viva la patria! E sei che... Ah, sì, tutto, anche. Tengo io al momento. A vedere nemmeno più lontano del tuo naso. Spero solo che finisca presto. Io non me la faccio più. Speriamo. Comunque, tra uomini al fronte, uomini in galera, uomini al confino, San Lorenzo è diventato un quartiere di donne. Non che la cosa mi dispiaccia, vada bene, perché le donne sono la nostra speranza. Noi dobbiamo aspettarci grandi cose da queste dolci creature. Le donne sono forza e poesia fuse insieme. Sono forza e poesia fuse insieme. Se io l'ammazzi, o so fiori o so. Ecco appunto. No? Vabbè. Oh, vado a fare qualche commissione, poi torno e spero di trovare la signora Iole. E sua cognata Francia. Ah. Arrivederci, signora Sutta. Arrivedervelo, dottor Alvise. Stavo in pensiero. Comunque, certo che a San Lorenzo si non so strani non ce li vorremmo, Ma io dico, ma che fregno buffo sto dottor Alvise. Ma poi ma che ci azzecca questo quartiere? No, no, non mi piace. No, ma è tanto una brava persona. È un po' tortolone, ma è tanto una brava persona. Il padre era presso il rosso dell'esercito, è morto. Ma non sa chi sta su dai parti loro. Qua c'è la madre, donna Anna. La donna dell'eleganza, la donna... Veramente, questa è gente importante, questa è gente delle fisarmoniche. De che? Delle fisarmoniche, ma non che parlo di queste cose. Comunque, qua c'è la madre, ho 10 anni e tutti i giorni lui puntualmente gli porta i fiori. Ah, un bel. Ma come si fa? Ha portato tutti i giorni i fiori? No, a sta per i cazzi di tutti. Io non sono attenta, guardo. Ma l'anima bella attento. L'Istituto Luce prima dei facini giornali le consulta. No. A me piace sta mezza di morti mia. Andiamo bene. A me piace sta sperare la mia seconda casa. Beppe, essere che state sempre tra i morti, sapete tutto dei vivi. Anche se il cinema non è che mi sarebbe dispiaciuto, C'è anche chi dice che c'è un non so che di Nazareno Nazario. Chi? Nazareno Nazario. Ah, vedero, chi è, guarda, lo sta là. Là. Sì, vabbè, io sono Maria Savoia Arvallo. Che papà vi ricevemo stamattina, dai, che gli regalamo, venite! Vabbè, me ne vado che è tardi. Passo dalla contessa all'Altavilla, invece faccio la chiacchierata, poi gli cambio l'acqua, gli do una visitata... A te che però, tipo... Senti un po', prima, no? Mentre che tornavo dal magazzino, al lavoro con Piaterelli, ho incontrato coso, la cosa di Giancalester, Agostino. Mi ha dato una lettera, è passato la Iole, mi sa che è De Marcello, boh, dice che è urgente, via. Ma com'è che ancora Iole non si è vista? E oggi è mercoledì, Iole sta al mercato di fiori. E su cognata Franca? Sì, Franca, quella la presa piano, prima che si alza in belletta se va tardi. Comunque questa è da carcere. Da carcere? Ma perché non è arrestato al Marcello? No, si è fatto arrestare al Marcello. Dice che praticamente c'era il piano di puntino Lupa perché stava a controllare sta cosa di rifugi sotterranei, quelli anteri. E insomma il caloscione non si è voluto levare il cappello. Non si è voluto levare. Mo' pare che doveva essere una cosa di una notte. Però mo' sono mesi, si vede che hanno trovato qualcosa. Ora Iole! Ecco perché ultimamente la vedo sempre stanca, tirata, mamma mia. Ma per fortuna che sono riuscito a mandare tutti la carovana agli attivoli dal fratello. Ma perché è andata attivoli tutta la carovana? No, non tutti, no. Qua è rimasta la piccoletta, quella di Nando. Tutto strilla. E poi c'ha un nome strano, non mi ricordo, com'è che si chiama? Guerina. Brava, Guerina perché c'ha la guerra, capito che... Aio! Ammazza che sorpresa! No, si parlava proprio per nome Guerina, perché dicevamo, perché c'è la guerra, io pure c'ho un nonno che è nato nell'epoca della bolla papale, ma mio si chiama Pollino. Fammi una chiacchierata, lo sai che mi piace chiacchierare a me? Ce lo so, beh, ce lo so. Ma mi vengono da Franca, non si è visto. No, ancora si è visto nessuno. Ma perché hai fatto così tardi? Sono venuta a piedi. Perché il tranvia è rotto? No, ecco, qui dalla Madonna. Mi sono affidata e sono scesa. Aiole, basta con queste cose, le devi sorpassare. Ma che non ce lo sai, che le donne sono la forza e la poesia conduta insieme. Ah, un bel. A lettera. È arrivata questa, io. È per te. Vabbè, io vado, va. Vabbè, io vado. Chi è questa ginestra? O te compri sta ginestra o te butti da finestra. Certo, sono io che sta. essere arrivate così tardi per vedere tutti i clienti. Ma sono sicuro se faccio i clienti sui, che quelli che vengono da me sono diversi da quelli che vengono da me. Ammazza, oh, stamattina siete simpatica come il fascio d'ortiche del tetto, mamma mia. Arrivo subito, signor. E scusate che mi date un attimo un'occhiata al banchetto che mi allontano un attimino. Arrivo, oh, t'ho detto che arrivo. E che c'hai prego questo oggi? Oh, e fatela una risata ogni tanto, eh. Mamma mia, che moscettona. Vabbè, io vado. Arrivo, oh, t'ho detto che arrivo, arrivo, eh. Oh, sai che fa? Eravamo. Il tardi, una doretta. Vado su casa e mi stendo un altro. No, certo ci vorrebbe dare vista. Oh, il dottor Alvisa si è visto stamattina, dice che mi portava qualche cosa. E che ne so se si è visto? Stamattina al banco, ce l'avevi vista a te. E invece te presenti a quest'ora. Pesciaiole, perché mi guardi così? Così come? Con quell'aria truce e pari gianzaetta contro i turchi. Te l'ho fatto, mo? Che hai fatto? Già pure il colato di lì che hai fatto? Ma come, la settimana che non c'avevo la lira, non riuscivo a guadagnare niente. A casa non c'avevo niente da mangiare. A Malavina un po' delante per quella mia. A Roma non si ne nasceva neanche a parlare da oro. In più fa un caldo che se muore, io mi alzo all'alba, vado fino a via Urbana, torno stanca, a piedi, sudata, al verano. E te che fai? Te presenti ai 11 con i guantini di pizzo e te stendi tallughi come la signorina Grandi Firme. Ecco da fare. Vabbè, ho fatto un po' tardi perché mi sono fatta il bagno. Il bagno? Ma che domenica che te fai il bagno? Ma che c'entra? Ma fa caldo, io mi sento tutto appiccicosa, io sento la puzza. C'è anche la forza di sentire la puzza. E poi scusa, ma la donna che a sto bagno dove te lo saresti fatto? Cucina. Ma cucina c'è solo Gregorio. Ah beh, quello è sordo. Vabbè, sarà pure sordo, ma ci vede, ti piacerà, ci vede benissimo. Ma dormiva, non si è accorto che non è. Che vergogna, speriamo che mi capisco in mano. E poi scusa, come fa a tagliare via a bagnare la sola? Ah, ma mamma la sua busta. No, perché in cambio gli eleggo l'avventura del suo babbulio. Te? Ma si sa legge? Che c'entra? Guarda le figure, immagino, un vento. Oh, sono busta, ma pure la schiena. È buona quella, adesso lo saprà tutto il palazzo. Non dice che vuole cambiare a casa, non gli piace quella dove sta. Ma che la sua busta? No, è stato Pampurio, è un'ultima avventura. Ma che mi prego per questo Pampurio? Ma tutti qualche giorno sto pensando al Pampurio. Ma che è sto tanto? Ah? Ah? O vedi che la senti pure te? E saranno i fiori, saranno. Oh, cominciamo. I fiori del banco di mio padre, buon anno, il salattiglio, profumano. Hanno sempre profumato. Questa, che la senti, Marichina. Che? Marichina. Ma questa è la saponetta che mi ha regalato il dottor Alvise. Dice che viene da Milano. Povera figlia da Milano, ma puzza come la colata massima. E poi così mi ci sta regalando quel babba solo. Ma c'è il dottore. Ma sarà pure il dottore, ma a me mi va il fesso. Brava, continua a fare da dietro te. Ma da chi? Ma come da chi? Franca, dalla gente. Oiole, ma stanno tutti disperati, stanno a pensare a me, stanno a pensare. Vabbè, Franca, ma come te pare? Margherite! Chi ne vuole le margherite stamattina? Le vuole lei per la signora? Niente, eh? Sono Gemma! Turma! Sì, dai, siedi davanti! Bacio pubblico! Margherite! Che margherite che ci avevo stamattina! Sorpino! Ho sentito che calo oggi! Non se respira proprio! Margherite, le margherite, eccole qua, signori, le margherite! Ah, sarà bene! A me siete di più in giro! Siete fatta molestiera, eh! Ah, basta! Come fa con i fiori? Mi siete stata fa... I salameletti qua! E che devo dire? E che dovrai dire? Gelati? Gelati! Ciccetta Tuberosa. Che è? Ciccetta Tuberosa. E che c'è un'anima pure? Sì, come si chiama? Cicetta tuberosa. Vendi la siale, siale! Chi vuole comprare questa? Chi cerca tu che cosa? Chi la vuole? Io la voglio, io. Come si fa a resistere ad un richiamo sì tanto dolce? Buongiorno, sono Franca. Felice giornata anche a voi, signora Iole. Compro io la tuberosa ricevendola da queste splendide mani avvolte da questi bellissimi guantini di seta. Ecco qua. E dottor Arvise, e che mi avete portato oggi? La mia presenza fisica. Ma io volevo dire oltre. Ho portato delle riviste. Ecco qua. Ma non dovevate proprio disturbarmi, ma perché mi siete incomodato? Ma questa è una sola. E poi questo piccolo presente. Che sono le calze di seta che tanto desideravo. No, non potrei mai essere così sfacciato da offrirvi un prodotto simile. O forse dovrei esserlo. Ah sì? E sitelo. Comunque, insomma, è un profumo. Se viene da Milano pure questo? No, no, no. Ah, allora, grazie. Prego, prego, prego. Il vostro entusiasmo e gioia imperitura per me. Imperitura? Sono pulire. Sì, certo. Ecco, tenete. Grazie. Ah, bene, allora io vado a portare questi fiori alla tomba di mia mamma che mi aspetta e ci vediamo dopo. Arrivederci. No, è che vi volevo chiedere una cosa. Ah, prego, dite. È arrivata una lettera del mio marito. Che? È arrivata una lettera di Marcello. E non dici così! E come lo devo dire? Vado adesso! Vedete, tutto la lettera viene dal carcere. Beh, signora Iole, non vi dovete vergognare. Io sono al corrente dell'impegno del signor Marcello a favore degli antifascisti e non posso che lodare il suo coraggio. Sì, c'era sì, presto, no, vedrei. Non è quello, no, è che Marcello è sempre stato un rivoluzionario, che se l'ho fatto il callo. E cos'è allora che mi preoccupa? C'ho paura che a forza di stare dentro, che ne so, ha perso il seno, uscito fuori di testa. Non è possibile. Ma e cos'è che me lo fa pensare? È che nella lettera c'erano scritte cose strane, senza senso. Oh, ma c'era scritto? Ma da quando sai legge, te sentivo, dai! Marcello mi ha parlato, ho detto che ne potrà essere utile. E va sicuro tutto che le frasi che ho letto sono frasi da matto. No, senti, guarda Iole, per piacere, guarda che Marcello è sempre stato più intelligente di tutti, hai capito? Ma che può essere franca, stavola c'è sta papà a tutti. Se mi fate leggere questo messaggio, forse posso aiutarvi. No, l'ho fatto in mille versi. Perché nella lettera c'era scritto così, di riferire in segreto a una conoscenza il contenuto del biglietto e di distruggere il biglietto stesso. Ah, e voi avete mandato il biglietto alla conoscenza, il messaggio? No, io personalmente no, però ho mandato una persona fidata a farlo. Ah. Iole, Sannata, ho ripulito tutta la canzone al vecchio a voce bassa così nessuno se ne è accorto. La persona fidata. Vabbè, ci penso io. Ecco, tieni qua. Sì. Vedete, tutto io sono vicino a mio marito. Quando ho letto quei cose strane ho pensato che c'era qualcosa che non andava. E siccome Franca mi ha detto che voi siete il dottore, che ne so io? Ma io sono un dottore, ma non sono un medico, eh. Però se mi dite che cosa c'era scritto nel messaggio, può darsi che io riesca ad aiutarvi. Vi ricordate il messaggio? Sì, c'era uno che era felice, ma poi non era più felice. E poi una cosa che ci aveva che vedere con i pappagalli, con i porci. Angelè, ti ricordi la canzoncina che hai detto all'orecchio sottovoce? No, no, non devo più parlare di questa storia, mai più. No, no, adesso se ne può parlare. Perché? Perché prima mi sono sbagliata. Perché? Perché la gente si sbaglia, Angelè. Perché? Perché tu non fai tre? E no, Angelè, che c'è nel messaggio? Felice non è più felice. I corvi stanno arrivando. Spostare i pappagalli rossi dove il tacco bacia il Vesuvio. Mio fratello è diventato scemo. Sono parole senza senso. Anzi, direi che si tratta di messaggi in codice. È probabilmente un messaggio cifrato. Dottor, scusate, ma che c'entra la matematica? No, ma non c'entra niente la matematica. Voglio dire, è un messaggio segreto. Cioè, è detto con parole diverse da quelle che dovrebbero essere perché non si capisca. Cioè? Felice non è più felice. Per intanto vuol dire che c'è qualcosa che sta cambiando. C'è un'emergenza, ci sono delle novità. Il fatto dell'arrivo dei corvi, quindi degli animali pericolosi e neri... I fascisti! Appartigliano, perché oggi mi chiedo intorno. E i pappagalli rossi, già proprio per il colore degli animali, potrebbero rappresentare... Antifascisti! Parlate piano, parlate piano. Appunto, questi antifascisti dovrebbero essere portati dove? Dove il tacco bacia il Vesuvio. Il tacco bacia il Vesuvio. Il tacco bacia il Vesuvio. Il tacco... No, non riesco a capire cosa voglia dire. Il messaggio ti fa un culo. A chi avete detto che era indirizzato il messaggio? No. Brava, brava, non ditelo. Adesso stati qui tranquilla. Sì, tranquilla e morta. Ricala a star gabbio e pazienza da son groppata. Non ti rotto qualche cosa? No, no, sono su tutto a posto. Che bei guanti, sora Blanca, complimenti, eh? Grazie, ma regalati mia madre. Chi lo vuole sto fiore? Il mondo è fatto a fiori, chi non coglie resta fuori, venite! E come sta piccoletta Guerina? Bene, bene, l'ho lasciata con San Gregorio. Guerina mia con San Gregorio? Un cristiano di 90 anni soldo con una creatura di 12 mesi. Sto perfetti insieme, quella strilla come lo stesso e lui ride. Va bene, signora, allora io vado a quello che dovevo fare. Però volevo ancora dire una cosa, sora Franca. Se volete, domenica, ci sarebbe l'opportunità di andare nei giardini dell'università. E questo invito naturalmente è esteso anche alla vostra famiglia e alla signora Assunta. Capito, sora Assunta? Domenica andiamo a uscire fuori porta. Non vedo l'ora. Ah, sora Assunta, vede l'ora. Sono tutta un fremito. Portandoci poi le sedie da casa, potremmo... Ah, capito, sarà successo, pure la porta in sedie. Pure. Oh, tipo sono gusta, se fanno prestare sue. Sì, allora vedi. Potremmo prendere un po' di fresco vicino alla fontana della Minerva. Capito, sarà successo, pure la fontana di Minerva. Chi? Minerva, a moglie dell'Olivaro. Ah, no. Ammazza, perché se sono comprati una fontana? Ma no, la dea Minerva, la dea della conoscenza, come voi siete la dea della grazia e della virtù. Grazie. Io però non ho capito, la dea de... Sta cerca dei fiori, chi la vuole? Come è fatta a fiori, se non cogli resti fuori. O magari lo potevo dire pure a San Gregorio, che dici Iole? E io a San Gregorio deve venire con noi domenica a far gita fuori porta. Ma domenica dobbiamo andare a Articoli da mio fratello, ma che tu sei scordato? Dovrò andare a vedere che fine hanno fatto le altre creature mie, no? Voglio abbracciarmi via quella grande, Filmina. Voglio sapere come stanno. Ti preoccupare, ma stanno tutti bene. Filmina! Filmina! Come stai? Buona notte. Che bei mattini, che bei. Come andate? Sentiva che bella mia. Ammazza come sei cresciuta, eh? L'aria di Tivoli te va bene. mi avete sfornato? Mo' ho capito perché Marcello si è fatto arrestare. Ma perché ha arrestato papà? Mi pareva che non riusciva a stare tranquillo. No, potete mettere a parlare così di tuo padre. E a voi, chi ve l'ha detto che hanno arrestato mio marito? Se sa, se sa. Le notizie girano. Girano, mentre rigirano, girasoli! Forza signori, girasoli belli stamattina venite! Ma quando è successo, ma? Prima domanda le faccio io, come te sei azzardata una via da casa del zio? Nessuno! Ma mica lo fai come te pare, cioè sono 16 anni, oh! Ma che stavo a fare, sei pulito! Ancora! Ho qua puzza lo marcio, io volevo stare qua, c'è sta la guerra, e io volevo dare solamente il mio contributo! E il contributo, ma la senti il tuo tipo del contributo? Ma non so nemmeno come fate a dormire! Siamo 16 in tutta la in cucina! Almeno da zio un posto caldo, il letto ce l'avevi! Puzzavano da romaggio pure quelli, mamma. Invece San Lorenzo profuma. Roba che custa calara, pensa che mi tocca ricambiare il bagno. Sì, sì, San Lorenzo profuma, profuma di casa mia. Io vado all'arancio, ma posso dormire da sola comunque. Allora mangi. Non deve mangiare, deve dormire. Insomma, e fanno il sorriso pure di più. Oh, davvero, io le fate la risata ogni tanto. Che incoscienti che siete. Ma mamma, capite, per me questo è il giorno bello. Io sono tornata a casa mia, sì. È il giorno di festa. Cioè, sento pure io campane, sento. Da passare il pelo da un pianta suor Paolina. Ma è morta suor Paolina? Passa quante me ne dava. Te sono servita a niente, però. Ma io sono il giorno. Ah, vedi, apri, mia, come ti sei diventata grossa. E la rete di voi l'ha fatto bene. Guarda che colpicino che hai messo prima. Tutta l'anna mi fino a mandare. È vero, è tutta mi male. No, per carità, te mi so la Firmina c'ha solo il nome. Firmina è tutta razza nostra, me e mia madre. De corpo, forse. Voi da famiglia vostra siete tutte gamba corta e culo grosso. Ha parlato la figlia. No, guardate che Firmina eravamo cesenti. Ma che senti, ma che non lo vedi che erano francescuoli, sputati, eh? Ma che senti te che i francescuoli c'hanno l'occhio rotondo a palla? E invece Firmina c'ha l'occhio di raggio al cinese. Ma si c'è diciamo c'è troppo, il figlio è stato piccolo, come tutti i francesi. Ma che stata ti, scusate se avete detto, è tutto il nome, sono a figlio, vieni, gli sacca del culo, gli sacca del culo, guarda, bravo, Materazzini, uguale. Scusate, ma zitta, è da faccia mia che si sta parlando. Ma che era una domanda. Nonna Firmina. Brava! Scusate! Che sta passando su Alcoli? Don't stop. sognando di te ti vorrebbe vicino, sempre solo per te, mentre invece il destino più da lontano ancora tu. Dove mai sei tu? Se non senti più questa mia voce piena d'amore. Buongiorno, io. Siamo svegliati che candine stamattina? Che non ce lo sai che al mattino c'è l'oro in bocca? Grazie. Io in bocca c'ho solo quel saporaccio di surrogato di caffè che mi fa mio moglie. Ah, che darei per caffè come quelli della volta. L'ultimo che ho preso è stato prima di essere quello. Ciangele? Ah, uomini! Poi dice perché non si fida più di noi. Ammazza che bei ci sono stamattina, eh? Sono belli, sì. Erano i fiori preferiti di mio padre. Sì, eh? Mi ricordo che mio padre mi raccontava sempre la storia del girasole. C'era sta ragazza, no? Che si chiamava Alizia. Ma si chiamava Alizia? Alizia, ma che ne sai, un bello, un bel antico, importante. E a un certo punto sta ragazza incontra un giovanotto, alto, robusto, bello, bello come il sole. E se ne innamora con la scena. Oh, ma pure lui, eh? Pure lui era innamorato di lei. Infatti diceva che lui faceva un amore per campo e tutta Callara. Poi, un brutto giorno, Apollo... Eh? Apollo, il giovanotto, si chiamava così, Apollo. Si chiamava Apollo? No. No? Apollo, un brutto giorno, se ne andò. L'abbandonò. La ragazza per la disperazione rimase per 9 mesi sopra il cavo, tanto che i piedi si attaccarono alla terra, e il corpo si irrigidì e i capelli divennero una lucente corona gialla. E così Crizia divenne il fiore. Il fiore più luminoso del cavo. Ma quando passava a volo, le girava a portarlo, guardava da lontano, molto per lei era come il sole. Mi ricordo che quando mia madre mi ha raccontato questa storia stavamo a fare colazione con pane e latte. Come mica ce lo so perché ma certi lacrimoni mi sono scesi giù. Quel giorno mi sono mangiata pane, latte e lacrime. Che c'hai io? Niente, niente. Che c'ho? Ho fame, dai, che c'ho. Che darei per una tazza di pane e latte? Che lo dici? A volte penso che siamo tutti come dei girasoli. Ci vediamo per cercare disperatamente il calore di una vita che fosse nata. Ma che stai? Che devi dire su? Ma che fai? Me lasci da solo? Eh? Guarda, me. E che devi essere più sorridente, devi sorridere più di me. Eh? Hai capito? Ma tu ricordi che quando eravamo fidanzatini? Io ero piccoletto, poi già più grandicella. Uscivamo, andavamo in giro mano per mano. Ammazza, mi ricordo come fosse ieri. Ma quando? No, mi ha portato in giro per cimiteri, per tombe, e poi mi ha regalato il boccolotto. Brava, ti ricordi? E poi la notte mi hai lasciato col ballatoio di casa, però vabbè. Vabbè, ti credo. Che sono sempre stato libero nella vita di ciò. È per questo che so tutto da tutti. È per questo che mi piace più guardare che fa. Però ci ho mai avuto paura della morte. Pure in quello so più. Ma tanto quando la mare si caverà per me che cambia, no? C'è sempre anche la nostra no, solo che dall'altra parte. Ma perché sta a fare questi discorsi adesso? Ma che ne so io? Sarà sta guerra che mi sta a far venire un sacco di dubbi. Su quello che ho fatto, ma soprattutto su quello che non ho fatto. Su quello che non ho mai detto. È per questo che forse mi sono rinchiuso nella pace del cimitero. È per questo che Io c'ho i rimpianti, Marcello. Marcello da te. Vabbè, ma ti sei preso la ragazza più bella di San Lorenzo, bionda con gli occhi azzurri. Che vuoi dire più? Niente. Io non volevo niente. Mamma, sei Umberto è innamorato di Iole. Dite cose di cui voi potreste pentirvi, e anche voi, no, sarà franca. No, no, Iole c'ha ragione. Una donna che non può mettere al mondo figli, e che sente? Ma no, vedrete, verrà un momento in cui non ci sarà più da preoccuparsi o da pentirsi, disperarsi per queste cose. Dottor, voi siete tanto caro, ma siete pure tanto idealista. Sono gli ideali che fanno le persone, e sono le persone che fanno la storia. Tete! Tete tutti! Tete! Tete! Tocca a mia madre. Thank you. senti? Guarda. Mi rossetto. Tu sei messa rossetto, ma... Curia, voglio morire. Un po' di rossetto, Curia. Hai visto, ma? Hai visto? Sono arrivati tutti. Ci stanno tutti, ma... E che dovevo imparare, sì. Prima però lasciavamo Marcello, che era piccolo. C'aveva il buco lì. Qui, a Via De Marsi, dove c'è stata una casa per bambini. Mamma mi lasciava sulla porta e mi diceva che non dovevo entrare. E io da là sbirciavo dentro la casa, dove tutto, i tavoli, le sedie, i piatti, erano piccoli piccoli. Un giorno la direttrice se ne accorse, mi prese per mano e mi fece entrare. Mi diede una carezza sui capelli e poi mi regalò un libricino illustrato. Poi non l'ho vista più. I vecchi del palazzo di Via De Marsi hanno detto che se n'era andata via, lontano, lontano, per aprire altre case per bambini in giro per il mondo. Io ho saputo che si chiamava Maria, Maria Montessori, che non era sposata e che non c'aveva la famiglia sua. O forse la famiglia sua erano tutti quei bambini sparsi in giro per il mondo. Io non lo so perché, ma è stato il suo ricordo. Il ricordo di quello sguardo così diverso, dolce, eppure determinato, fiero, che mi ha dato la forza di resistere a tutto quello che mi è successo dopo. Franca, mi dispiace perché siamo tutti stanchi, sotto pressione a Fabio. Ti preoccupare, non fa niente, è successo. Avete sentito? I fascisti. I fascisti hanno fatto irruzione al bar di Romolo. Era da un po' che il bar lo tenevano d'occhio. Poi qualcuno l'aveva fatta la spia. Cosa hanno trovato? Una tipografia clandestina, stava nello scantinato, ma non hanno trovato niente. E solo al paro che c'ha le finestre di fronte mi ha detto che i fascisti hanno continuato a perquisire il locale per tutto il tempo. Forse cercavano qualcos'altro. Da pagarli rossi. Che? Signora Franca! Sto qua! Signora Franca! Santo qua! Volevo dire, volete sposarmi? Che? Amor tossique non ce l'atur. No, ho capito. Amore tosse non si possono nascondere. I miei sentimenti per voi sono sinceri, profondi, onesti. E su questa pubblica piazza, piazzale del Verano, del quartiere San Lorenzo fuori le mura, giovedì 16 luglio 1943, io Alvise Trevisan chiedo a voi, Franca Cesetti, l'immenso privilegio di poter diventare vostro marito. Oddio! E devo rispondere subito. Anche dalla guerra, non si dica che tu sei stato. Ma io non ero. Io ero, tu che dici? Dico, perché? Fa quello che te va. Oh. Allora? Allora? Allora? Allora sì! Permettetemi di aiutarvi, io ho alcune tessere annonarie in più, ecco, e poi ho in questo momento questi pochi spicci da darvi, e oggi a Largo degli Oci c'è il mercato nero, la borsa nera, e lì forse potreste trovare del cibo in più, magari, dato, Grazie, io non c'ho parole. Allora io vado a fare la spesa? No, aspetta, mi accompagno! Prima però, sì, voglio passare all'Immacolata. Certo. Arrivi, accompagni! Congratulazioni, dottor. E che altro di generosità, E tutti questi soldi, da dove vengono? Cosa volete insinuare? Non dico i soldi sui vostri o fanno parte delle 300 lire che passo da chi fa spia? Ma come vi permettete? Tutti conoscono le mie idee liberali e progressiste. È inutile che vi trincerate dietro sti parolori difficili. Qui a San Lorenzo siamo tutta gente semplice, per noi contani fatti. È tanto che vi osservo. Venite qua al verano, ecco, a scusate i fiori e intanto vi pisciate. Parlate con Umberto, noto pettegolo. Avete fatto il lumacone con quella vora crista de Franca per avvicinare la famiglia di Marcello che, guarda caso, è uno degli antifascisti che si danno più da fare più a San Lorenzo. Voi state delirando. Ma è stato il giorno dell'esercitazione, quando siete tornando indietro per spiarmi mentre che stavo a parlare con la moglie di uno dei compagni che si nascondono qua, che ho capito. Eh? E allora l'ho seguito quello. Ho visto entrare nella casa Balini. Con chi dovete parlare lì dentro? A chi la dovete fare spia? Sono tutte menzogne. E allora chi è stato a riferire ai fascisti dei movimenti dentro al bar di Romoletto, eh? Io non so niente del bar di Romoletto, non so nemmeno dove sia questo bar. Ah no, eh? No! No. Angele, senti un po', di che stavano a parlare l'altra mattina Umberto e il dottore? La mattina che io l'ho arrivata tardi, Angele! E solo Umberto ha detto che la sua assunta faceva la coperta. E riguardo al bar che hanno detto... Umberto ha detto che nello scantinato del bar c'era la tipografia clandestina e il dottore ha detto che non si poteva dimpare perché era vietato di parole straniere. Ma dottore, io l'ho aspettato, in quanto dura che mi aspetto, ma c'ho da fare, non è che posso tutto il giorno. Comunque, per quanto riguarda quel discorso del bacco che sta al bar del Vesuvio, mi è venuta di essere... Se ne parliamo, poi... E fatelo finire! Come vedi, comunque, qui a San Lorenzo, prima della guerra, c'era un certo Stefano che tutti chiamavano il tacco perché ballava bene. Ah, della stucca, forse se lo ricorda. Se lo ricorda. E praticamente sto tacco ballava bene e si è sposato con una donna, una bella focosa, una bella donna, dottor De Napoli, che chiamavano tutte il Vesuvio. Insomma, per farvela breve, sto Vesuvio e sto tacco sono stati arrestati perché sono stati trovati che si baciavano davanti a casa loro. Ci avevano lo scantinato a via dei Dalmati. Tra l'altro dove c'ha proprio immagazzinato lassù. È vero da lassù? Vero, dottor? Angelè, è con me che è meglio, no? Mi servono i soldi. Appunto, vedi che c'ho un funerale e mi serve il piagnone. Mazza, tante cose. E ora andate a riferire al fascio che i compagni si nascondono nel magazzino. Eh? Vabbè, dovrà chiedo spiegare. Perché fortunatamente adesso sono scappati. Stanno al sicuro, nelle campagne romane. Quindi voi... Ma io non ho fatto niente! Quando i fascisti sono venuti a casa sapevano già tutto del bar di Romoletto e di tutte le attività clandestine. Il bar era sotto controllo da diversi giorni e la retata era già prevista. Felice non è più felice, voleva semplicemente dire di portar via le coppie dell'unità dal bar di Romolo. Ma fatela finita. Bravo, dottor. Avete lavorato bene questi mesi. I fascisti mi hanno picchiato. Ho perso il lavoro per via delle mie idee democratiche. Minacciano di togliermi la casa se non avessi collaborato. Che cos'altro avrei dovuto fare? Avreste dovuto rinunciare a tutto, dottore. Ma non la vostra dignità. E adesso andate. Andate via vestiti che assunta, la coperta, aiuta i compagni. Andate! Mi spiace. Ho avuto paura. Ma mi sono odiato e disprezzato più di quanto voi disprezziate me in questo momento. Vi chiedo scusa. Scusa, non lo dovete chiedere a me, ma alla vostra coscienza e a Franca. I miei sentimenti verso Franca sono sinceri, comunque. Non ditele niente, se Franca venisse... State tranquillo, dottor, non gli dirò niente. Papà Crista non l'ho mai vista così felice. E adesso ricomponete, eh? Ricomponete. Sì, Dio vuole, tutto questo incubo finirà presto. Tenete questi su biancospini. Sono simbolo della rinascita e della speranza. Regalateli a Franca, dottore, e tanti auguri. Sempre detto che bisogna aspettarsi grandi cose dalle donne. E mo sempre fatto grandi cose. Grazie. Tutto a posto, eh? Chissà la data del matrimonio. Fate libero, la mia ha detto che il giorno... Mi sa dove lui, a mille. devo confessare. Ma la spesa! Nonna Firmina sta pulita su casa. Adesso per festeggiare il matrimonio ho portato un litro di latte e la cirriola. Una cirriola! Quanto bimbi ti portava? Sì, sì, ma dai per paravano! Eccolo! Ma vedo il coltello, sono su! Non sono forbicioni! I forbicioni, ma dai, la cirriola di forbicioni! No, no, i forbicioni vanno bene, sta buona te! Mettono pure i bicchieri per latte, sarà su! Ho capito, e quante noi, che io c'ho il ristorante, io, se volete, ci porta con voi! No, però faccio che vanno persone! Quel giorno era riuscita a scappare dai tedeschi voleva riuscire a salvare la bambina di via dei Campani di cui tanto parlava. Angeletta quel giorno correva. Correva mentre le bombe cascavano dal cielo che parevano confetti. Arrivata a via dei Campani la vide, ferma, spaesata, a mezza alla strada. Una creatura da appena 3 anni. Angeletta gli si avvicinò e fu allora che l'aereo che volava basso cominciò a mitragliare. Poi Angeletta si strinse forte a sé la bambina che si andò a rifugiare dentro al primo portone, mentre il corpo d'Angeletta giaceva sul marciapiede. Non ho mai saputo come si chiamasse quella bambina. Alla fine della guerra per noi San Lorenzini era semplicemente la figlia detta. Angeletta detta Etta, sepolta quell'estate del 43 al Verano, insieme a Iole, Umberto, Franca, Alvise, Assunta. Lo spettacolo Pane, Latte e Lacrime di Veronica Liberale, regia di Cristiana Vaccaro, con Franco Barbero, Camilla Bianchini, Antonia Di Francesco, Veronica Liberale, Francesca Pausilli, Giada Prandi, Andrea Venditti. L'agenda della settimana teatrale. Con Alessandro Di Somma, uno dei curatori del progetto Fortezza Est, che inaugura sabato 13 marzo 2021. Ben trovato. Buongiorno Federico, grazie, ciao. È un piacere, è sempre un piacere. Ci racconti un po'? Beh, guarda, noi veniamo dall'esperienza più che decennale dal Teatro Studio 1 e la Rocca Fortezza Culturale a Corpignattara. Noi negli anni cercavamo uno spazio che potesse riunire le nostre due anime, quella teatrale e quella letteraria libraria. Quindi abbiamo trovato più di un anno fa questo spazio che si chiamerà Fortezza Est, che abbiamo preso purtroppo, diciamo, o per fortuna, abbiamo firmato il contratto una settimana prima del lockdown nazionale, ma non ci siamo abbattuti e ci siamo messi a lavorare da testa bassa per restituire un po' al quartiere, in un luogo che è stata una bisca negli anni 60-70, poi una palestra, una lavanderia, infine una chiesa ortodossa, cattolica ed evangelica. Abbiamo deciso di dare al quartiere uno spazio culturale a 360 gradi, uno spazio molto grande, sono 400 metri quadrati, dove ci sarà un teatro da 100 posti, una libreria e poi uno spazio per laboratori, studio e una biblioteca condivisa, che è un progetto che stiamo curando da un po' di tempo, che per noi è molto importante, cioè dare a Corpignattara una biblioteca con i libri donati dagli stessi abitanti, visto che ci veniva chiesto alla cittadinanza, chiedeva uno spazio di questo tipo, noi abbiamo deciso di aprirlo e siamo molto contenti e emozionati per questa nuova avventura, nonostante tutte le difficoltà che immaginerete, ma noi crediamo che proprio in questi momenti bisogna lavorare e tirarsi fuori da questa situazione. Siete forti anche dell'esperienza precedente, ecco, ci fai un bilancio di quella stagione? Noi col Teatro Studio 1 ci siamo radicati molto sul territorio, abbiamo reso un teatro che era uno spazio prove, che era degli anni 90 aperto, abbiamo fatto diventare uno spazio indipendente molto importante a Roma per le compagnie e molto importante per il quartiere come centro culturale, come spazio per vedere gli spettacoli, per capire un po' dove va anche il teatro contemporaneo. Siamo due ragazzi che credono che la cultura sia un bene di cui deve fatta venire la fame e la sete, non crediamo che noi abbiamo uno spazio per dare da mangiare agli affamati di cultura, ma la vogliamo far venire la fame, quindi noi in questo tempo abbiamo lavorato per questo, per creare nel quartiere e negli abitanti la voglia di informarsi, di venire a vedere gli spettacoli, di leggere, insomma di avvicinarsi alla cultura, anche chi forse la cultura la vive in maniera diversa da noi, quindi penso che un lavoro che abbiamo fatto ci sta restituendo tanto, perché le persone appena hanno saputo della nostra nuova avventura sono veramente accorsi in massa per venirci a salutare, per venire a vedere lo spazio, quindi siamo veramente molto emozionati. E se è successo questo in un periodo di emergenza sanitaria e tutto, immaginiamo quando prima o poi tutto questo finirà e potremo veramente tornare a vivere insieme in uno spazio comune, uno spazio privato però aperto al pubblico, che svolga una funzione pubblica, come crediamo che debba fare sia il teatro che la letteratura e l'arte in genere. Ecco, proprio a questo proposito, come vedi nel prossimo futuro la realtà del teatro e della letteratura? Io credo che la realtà del teatro debba essere una realtà ricostruita anche proprio dalle fondamenta, di rimettersi in gioco, a capire tutti gli errori fatti in passato. Speriamo che possiamo prendere veramente spunto da tutto quello che abbiamo sbagliato noi per primi nel nostro lavoro. Il teatro ha bisogno di fondamenta solide e noi crediamo che dobbiamo ricostruirci partendo proprio dal basso, dalle fondamenta, da creare dei presidi di quartiere, presidi cittadini che siano sostenuti anche dal basso, direttamente dalle persone che lo vogliono vivere. Noi crediamo che il teatro svolga una funzione sociale importantissima e non si debba mai staccare dalla realtà. Deve ricordarsi le sue origini. Il teatro è un teatro che va per il popolo, per le persone, quindi noi crediamo che il teatro non morirà mai. Speriamo che possa rinascere, però con uno spirito anche un po' antico, un po' primordiale, ritornare un po' alle origini per ritrovarsi, ricostruirsi, perché crediamo che ci siamo un po' persi in questi anni e questa pandemia ci ha messo davanti un po' la realtà in cui la fragilità del nostro mondo, che veramente si regge su forze economiche piccolissime, che appena vengono a mancare crolla tutto il giocattolo. Quindi ricostruiamoci e creiamo delle fondamenta dal basso, e partendo proprio dai quartieri che ospitano i teatri, specialmente i teatri indipendenti. E il mondo del libro? Non si è mai fermato, hanno continuato a pubblicare, ci sono tante cose in uscita, penso che c'è un grande fermento, c'è tanta voglia di leggere, noi abbiamo, ci siamo accorti di questo, soprattutto anche per la chiusura forzata a casa. Veramente tante persone sono venute anche quando stavamo chiudendo la Rocca Fortezza Culturale a chiederci i libri, abbiamo fatto consegne a domicilio, abbiamo continuato a svolgere questa funzione di portare i libri a casa anche durante le chiusure, perché se ne sentiva proprio la necessità, soprattutto per la letteratura per ragazzi, ma anche molto per adulti. Molti non si sono chiusi davanti a un computer a vedere serie TV tutto il giorno, ma se la metti a leggere, anche perché la lettura veramente ti porta lontano, ti fa vedere la realtà con occhi diversi. Noi veramente siamo molto fiduciosi che da tutta questa terribile situazione si rinasca più forti e ci sia proprio una rinascita culturale. Noi siamo convinti di questo, altrimenti non avremmo investito tutte le nostre forze e risorse su uno spazio che si occuperà esclusivamente di cultura. Quindi crediamo che la cultura possa essere sovvenzionata anche dal lato privato, dall'utente, dal chi compra un libro, chi vede uno spettacolo, chi partecipa al laboratorio. Noi crediamo in questo e ne siamo convinti. Ci lasci tutti i riferimenti? Torpignattara, a via Francesco Laparelli 62, da lunedì al venerdì 9.13, 16.19 e il sabato 10.13, 16.20, la domenica siamo chiusi. Venite a trovare, scambiamo due chiacchiere, vi facciamo vedere lo spazio, se volete prendete un libro, altrimenti ci vediamo la prossima volta. Fortezza Est, inaugurazione sabato 13 marzo 2021, un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Alessandro Di Somma. Un abbraccio, grazie, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille, a presto. Con Raffaele Costantino, curatore del progetto podcast Music and the Cities. Raffaele, ben trovato. Ciao, ciao a tutti, ben trovati. Di cosa si tratta? È una sorta di viaggio virtuale. In questo viaggio proviamo, come dire, a raccontare il paese, analizzando un po' tutte le differenze che ci sono a livello territoriale nelle varie città. Ne abbiamo selezionate 7 per adesso, per questa prima stagione, e tramite tutte queste differenze poi alla fine esce fuori un ritratto d'insieme, diciamo una visione panoramica con una serie di zoom. E quindi il metro che abbiamo utilizzato per raccontare queste differenze e il tipo di sensibilità è quella musicale, quindi siamo fatti accompagnare in queste città da diversi musicisti, addetti ai lavori, persone che lavorano nel mondo della musica, che ci hanno raccontato non solo come suona la città da un punto di vista musicale, ma anche proprio da un punto di vista proprio del suono urbano delle città, di quello che succede, di quello che non succede, dei luoghi da vedere, dei posti in cui andare a scoprire meraviglie sconosciute. E su questo ci aiutano anche degli scrittori che vivono queste città da tanto tempo e che ci consigliano dei libri per conoscere meglio. Quindi delle guide vere e proprie, però prese con un altro punto di vista che non è quello appunto Lonely Planet. Ecco. Come è venuta fuori l'idea? Io avevo curato un progetto per il Ministero degli Affari Esteri che si chiamava Place to Be, per cui il Ministero mi aveva chiesto di sviluppare un progetto per far vedere all'estero quanti luoghi belli ci sono in questo paese e quanta bella creatività. Quindi avevamo fatto suonare degli artisti conosciuti in tutto il mondo, artisti italiani tipo New Guinea, Clap Clap, in luoghi straordinari del paese. E quindi poi da lì, quando c'era l'idea di ragionare ancora su un altro progetto del genere, mi sono detto, beh, lavoriamo sui luoghi ordinari, ti raccontiamo quello che succede, perché poi c'è sempre questa grossa differenza, no, nel mondo della musica, dello spettacolo, della cultura, cioè l'idea di ragionare o sull'approfondimento o sull'intrattenimento, quindi o sullo straordinario o sull'ordinario. Lo straordinario sono appunto, non so, i festival, i grandi eventi, i grandi accadimenti, l'ordinario invece è quello che costantemente smuove un tessuto culturale urbano, e quindi insomma mi piaceva l'idea di raccontare quell'aspetto lì. Che formato avranno questi podcast? Un formato audio da 1:10, un'ora e un quarto, cioè diciamo sono abbastanza lunghi, sono rilassati, cercano di tenersi liberi dalle regole dei media tradizionali, appunto, che tu conosci, insomma, no? La radio, per esempio, ha i suoi tempi da rispettare, lì invece siamo molto rilassati, c'è una parte introduttiva in cui io racconto la città da un punto di vista storico, quindi un'introduzione per contestualizzare il tutto, e poi c'è un'intervista vis-à-vis proprio con questi ciceroni che ci raccontano tramite la loro storia e la loro esperienza come la città ha cambiato anche volto da questo punto di vista, perché appunto proviamo ad avere artisti che non sono troppo giovani e quindi hanno vissuto gli ultimi 20 anni, ecco, di evoluzioni musicali nella loro città, non sono neanche troppo vecchi per raccontarci cose che non interessano più o che non riusciamo più a vivere personalmente. E poi ci sono una serie di inserti di diversi personaggi, artisti, addetti ai lavori, che ci aggiungono delle pillole specifiche in base al discorso, cioè se magari viene nominato nella puntata di Bologna il Festival di Musica Elettronica di Bologna, il direttore artistico di Bologna ci darà dei cenni importanti per farci capire meglio di cosa stiamo parlando. Ci dai tutti i riferimenti web per maggiori dettagli? Diciamo che il podcast, come non succede mai, sono pochissimi gli esempi in questo senso, ha un vero e proprio sito, che sarebbe il sito di Studio 33, che è il nostro progetto, diciamo, di approfondimenti di tematiche musicali, il nostro studio, il nostro main project, diciamo. Quindi su studio33club.com si trovano non solo tutti i podcast da ascoltare, ma si trovano anche addirittura tutta la parte testuale del podcast, che sono stati trascritti anche a mo' di articolo, ci sono fotografie, video per andare a vedere alcune cose di cui si parla, oppure sulle classiche piattaforme di podcasting, quindi Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, oppure sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Quando è cominciato tutto e poi andrà avanti a tempo indeterminato? Noi abbiamo cominciato a lavorare a questo progetto ai primi di ottobre, perché ti assicuro che insomma, anche se sembra una cosa molto semplice, ma in realtà è stata una produzione, non so, tipo una serie Netflix. Ci hanno lavorato tante persone, gli autori, la redazione, chi si è occupato di tutta la parte video per la pubblicità, per tutta la parte teaser, per i video di lancio sui social, la parte di webmaster, insomma una vera e propria struttura organizzativa che chiaramente si può attivare solo quando hai appunto un committente del calibro del ministero che ti dà la possibilità di fare le cose veramente fatte bene, e insomma poi spero che questa cosa si percepisca. E dove andrà non si sa ancora dal punto di vista temporale, nel senso noi abbiamo tirato fuori questa prima stagione, come ogni prodotto on demand, chiaramente se la domanda andrà bene produrremo anche la seconda stagione, che chiaramente nel nostro work in progress mentale diciamo è già organizzata, ecco, poi bisognerà solo metterla a terra. La prima stagione è da quanti podcast? Sono 7 podcast con 7 città, Bologna, Napoli, Lecce, Roma, Milano e Torino, e Palermo. Music and the Cities, un saluto e un ringraziamento al curatore Raffaele Costantino. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, ciao a tutti, ciao. Con Simone Nebbia, autore del libro Rosso Antico. Simone, ben trovato. Eccoci, ciao a tutti. Come lo presenteresti questo lavoro? Ma è la storia di un'illusione, in qualche modo, la storia dell'illusione che prende quando si hanno tante idee, tanti desideri e la voglia di poterli mettere in pratica. Soprattutto si hanno dei sogni di cambiare le cose e di farlo tutti insieme. Questo è ciò che i più veduti chiamano politica, la politica nel senso più vero, più puro del termine. Ecco, questo è un libro che parla di politica in questo modo, di coscienza politica. Ed è un libro che parla di coscienza politica nel momento in cui ad un protagonista anziano, anziano probabilmente di idee e di contesti, mancano appunto un po' i parametri per ritrovare la propria coscienza politica perduta chissà dove, chissà quando nel tempo più indietro. Se non sbaglio, questo libro ha una curiosa doppia genesi. Ha una doppia genesi, effettivamente è vero, perché il nucleo che riguarda la storia di un professore che appunto si trova in un momento particolare della sua vita, quello in cui deve in qualche modo parlare delle illusioni della propria gioventù e si trova nelle condizioni di non trovare più appunto quei sogni, di non saperne più parlare, come ne fosse completamente avulso ormai. Questo nucleo nasce nell'estate del 2008, era diciamo durante appunto l'estate che poi avrebbe portato al movimento dell'onda, quindi quella appunto dall'autunno del 2008 in poi. E il personaggio del giovane studente universitario che si trova nel periodo di occupazione dell'università e attraverso i suoi appunti per fotogrammi, il suo diario per fotogrammi, cerca di ridare l'esperienza di che cos'è occupare un'università, appunto quel personaggio nasce proprio in seno alla protesta dell'onda, quindi diciamo che poi sono quasi scritti in corso d'opera quelli che riguardano il diario del ragazzo. Come hai pensato di sviluppare questo doppio binario? È stato un po' casuale in realtà. Io quando ho iniziato a scrivere la prima storia non pensavo a una seconda, ovviamente, quindi la storia del professore avrebbe avuto un suo sviluppo esclusivamente legato a quel personaggio. Invece il personaggio del ragazzo ha fatto parte di un altro libro per molto tempo. Io avevo interrotto questo Rosso Antico, che era la storia del professore, e ho iniziato a scrivere quello che avrebbe dovuto chiamarsi Mercurio, e appunto raccontava in corso d'opera questo movimento universitario. Poi quando finì anche il movimento universitario mi sono trovato con in qualche modo due mezzi libri e ho capito soltanto dopo che in realtà stavo scrivendo due facce della stessa medaglia, poi il recto e il verso, come si diceva nel Medioevo, dello stesso discorso. In che dialogo sono queste due generazioni? È un dialogo sperato in realtà, i due personaggi si sfiorano in qualche modo, no? Fanno parte dello stesso corso di studi, della stessa università, uno da docente, l'altro da discente, da alunno, da studente insomma. Curiosamente le idee che mancano al professore, che appunto non sa più parlare, è rimasto a 50 anni prima rispetto alle proprie idee di movimento, all'idea di coscienza politica, e quelle idee sono in realtà quelle che stanno venendo in mente al ragazzo. Si conoscessero, si frequentassero, il professore avrebbe modo di rientrare a contatto esattamente con quello che ha perduto. Qual è il bilancio del più giovane rispetto al movimento studentesco che ha vissuto in prima persona? Beh, guarda, è curioso perché in effetti, considerando il fatto che si tratta di una stesura che appunto nel mio caso inizia nel 2008 e poi si sviluppa fino al libro concluso nel 2018, quindi 10 anni dopo, devo dire che ci sono cambiato dentro anch'io, no? E il giovane ragazzo che potevo essere io allora, che avevo tante illusioni anche rispetto alla vicenda appunto che vivevo in prima persona dell'occupazione universitaria, poi ha iniziato a sviluppare anche quel disincanto, quella perdita delle illusioni, è capitata un po' anche a me, insomma penso che sia connaturata in realtà al periodo di maggiore impiego delle tue risorse, no? In quel settore, in quel campo, e poi si continua a lottare in altre maniere. E quella dell'onda fu una grandissima illusione in qualche modo, perché uscimmo sconfitti da quello che è stato poi fondamentalmente, dopo la Pantera, il più grosso movimento insomma del nuovo millennio, se possiamo dirlo così, anche insomma cominciato al momento da sui 21 anni. E quindi il bilancio del ragazzo pian piano è andato un po' appesantendosi anche di quella disillusione vissuta alla fine dell'onda, quando, io me lo ricordo molto bene, eravamo nei tempi della riforma Gelmini, che è stata quella che ha falcidiato l'università per come la conosciamo oggi, lo dico senza mezzi termini, eravamo insomma in quel periodo lì e mi ricordo scesero due senatori allora di quello che era il Partito Democratico, quello che rimane del Partito Democratico, ed erano Piero Fassino e Anna Finocchiaro, mi ricordo benissimo, scesero dal Senato con le braccia larghe a dire a noi in prima fila che protestavamo là sotto, non abbiamo potuto fare niente, non ce l'abbiamo fatta, e noi però avevamo occupato la città in quel momento. Scoprire la difficoltà di andare oltre quel momento un po' fece implodere l'onda, in qualche modo il ragazzo si porta anche questa disillusione. Ci dai tutti i riferimenti per saperne di più? Sul sito di giulioperroneeditore.com c'è la scheda del libro e anche la possibilità di scaricare gratuitamente il primo capitolo per potersi fare un'idea. E poi, insomma, sulle mie pagine social, io sono Simone Media, mi trovo da Facebook a Instagram, insomma, un po' ovunque. Quindi mi fa piacere entrare in contatto con chiunque ascolterà, comunque avrà voglia di notizie in più, insomma, io sono a disposizione. E tutte le librerie, ovviamente. Rosso Antico, un saluto e un ringraziamento all'autore Simone Nebbia. Un abbraccio in bocca al lupo e a presto. A presto. Con la giornalista Vittoria Iacovella, autrice del libro Con Grazia e Coraggio, storie di donne che hanno tracciato strade nuove. Vittoria, bentrovata. Grazie, bentrovata anche a te e a chi ci ascolta. Come lo presenteresti questo lavoro? Sono i racconti di quattro storie di donne, donne vere, donne che ho intervistato personalmente, che hanno inventato nuovi sistemi per risolvere vecchi problemi e lo hanno fatto mettendo in campo le proprie capacità femminili. Quindi sono storie di relazioni anche tanto, relazioni nuove con gli uomini, nuovi modi di rapportarsi a loro, nuovi modi di guardare il mondo. E ho scelto loro quattro proprio perché hanno creato sistemi che sopravvivranno anche a loro e dei quali potranno beneficiare anche le generazioni future. Sono state quattro interviste, ognuna a sé stante, oppure erano all'interno di un progetto già articolato? No, erano all'interno del progetto di questo libro. Quando l'editore mi chiese di trovare delle donne da raccontare, io mi misi a cercarle e ciascuna di loro l'ho sentita per 2 mesi, per tante ore ogni settimana, quindi loro sono state anche molto generose nel concedersi in queste sorta di sedute in cui mi raccontavano di volta in volta pezzi della loro vita, delle loro scelte. Quindi conta, ad esempio, durante il primo lockdown che io avrò sentito ciascuna di loro per circa 4 ore a settimana ciascuna, con appuntamenti diversi. Il nostro sogno, il sogno mio e delle protagoniste, era di scrivere un ultimo capitolo in cui si sarebbero incontrate e magari avrebbero pensato qualcosa assieme o raccontare questa interazione. Sognavamo di fare un mega pranzo tutte insieme, riunendo nord e sud fra l'altro, ma questo, come puoi immaginare, non è stato possibile. E rimane il nostro desiderio appena la pandemia ci lascerà un po' in pace. Com'è stata la scelta? Come hai iniziato a muoverti? Volevo delle donne che non solo avessero vissuto una serie di ribaltamenti della propria vita, ma avessero creato nuovi sistemi. Quindi ci sono tante donne realizzate, ce ne sono di storie, no? O anche donne che hanno fatto carriera, ma io volevo donne che avessero creato proprio sistemi nuovi anche per gli altri. Poi le volevo di ambiti diversi e soprattutto di età diverse. Infatti loro hanno 40, 50, 60 e 70 anni e hanno vite e modi di stare al mondo completamente diversi. A un certo punto mi sono chiesta: ma che cosa davvero le accomuna? Perché le ho scelte? Le ho scelte perché hanno quella che Hemingway definiva il coraggio come la grazia nella tempesta. E hanno questo perché loro hanno attraversato delle tempeste vere, grandi, importanti, e ne sono uscite a testa alta come delle vere regine, anzi con qualcosa in mano che era un nuovo progetto importante. E quindi i racconti sono questo: partiamo dall'infanzia di ciascuna per capirne il background, per capire da dove vengono le relazioni, perché poi sono storie di relazioni sostanzialmente, relazioni con se stesse, con la propria famiglia, con gli uomini, modi nuovi di relazionarsi con gli uomini anche, sia sul lavoro che in famiglia. E poi arriviamo fino ai giorni nostri, fino alla prova, al test più difficile, quello della pandemia, no? Però hanno messo su grandi progetti importanti, l'hanno portati avanti, e poi è arrivata questa specie di, io lo chiamo come un test, metti una macchina e la provi su un'autostrada a scorrimento ultraveloce, no? E quindi la pandemia è stata anche questo per loro, e devo dire che hanno retto magnificamente. Hai combinato piccoli racconti e conversazioni? Sono 4 capitoli, a parte l'introduzione che spiega anche la genesi del libro. Sono 4 capitoli con racconti lunghi e poi all'interno ci sono anche le loro conversazioni con varie persone, cioè, insomma, noi raccontiamo le loro evoluzioni psicologiche. Io faccio capolino raramente nel racconto. nel mio ruolo sì, ogni tanto viene fuori, ma veramente faccio capolino, lascio che siano loro le protagoniste. Che impressioni ne hai ricavato? L'impressione è quella di essere stata una privilegiata, cioè ogni libro è un'esperienza per un autore, no? Innanzitutto deve esserlo per l'autore un'esperienza, poi anche per il lettore. Secondo me un libro ha senso di esistere in quanto oggetto, in quanto frutto di alberi tagliati, fra l'altro. Vabbè, questo è carta FSC. Quando tu lo apri e quando lo chiudi non sei la stessa persona. Se no, che l'abbiamo scritta a fare? No, non ci ha fatto evolvere un pochino, almeno un po'. Perdere il tempo a scriverlo e poi a leggerlo. E io posso dire di non essere la stessa persona, io posso dire di aver fatto un saltino in avanti nella mia vita grazie a loro. La mia visione del mondo è cresciuta grazie a loro. Pandemia permettendo, lo accompagnerai per mano nelle presentazioni? Sì, la volontà c'è. Adesso innanzitutto troviamo online, abbiamo varie presentazioni online, una importante che ti anticipo sarà durante la giornata della Terra, il 22 aprile faremo la presentazione, ci sarò io, ci saranno le quattro protagoniste, perché si parla di sostenibilità e solidarietà. C'è anche molto rapporto con la Terra e con la sostenibilità ambientale in questi racconti. Cose che loro hanno maturato all'interno della propria esperienza lavorativa. E quindi sì, cercherò di accompagnarlo il più possibile. La mia volontà è quella di fare delle presentazioni soprattutto legate a specifiche comunità in cui potersi sentire insieme a casa per un momento e dire ok, parliamo di questo, perché poi da un libro partono anche da magari alcune righe anche di un libro possono partire riflessioni personali importanti sul proprio modo di essere uomini e donne in questo mondo. E quindi il mio desiderio sarebbe questo. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Ci sono i canali social i miei, Vittoria Iacovella, e poi quelli della casa editrice Città Nuova Voci nel Mondo. Li trovate su Facebook, su Instagram, io sono anche su TikTok, su Twitter, insomma ci trovate ovunque. Il libro si chiama Con Grazia e Coraggio. Storie di donne che hanno tracciato strade nuove, un saluto e un ringraziamento all'autrice Vittoria Iacovella. Grazie a voi tutti. Un abbraccio in bocca al lupo e alla prossima. Alla prossima, grazie. Con Valerio Bindi, coautore del libro Che cos'è un fumetto. Valerio, ben trovato. Ciao caro, grazie sempre del tuo invito. Che cos'è questo libro? Dunque, allora, intanto il titolo che a me piace tantissimo, però è un titolo diciamo obbligato perché è in una collana di questo editore che si chiama Carocci, famoso per le sue pubblicazioni universitarie, in una collana che si chiama Le Bussole, che proprio a tutti i libri che si chiama Che cos'è? Che cos'è una cosa o un'altra? Però a me ovviamente ricordano che cos'è un atto di creazione di Deleuze, oppure che cos'è un dispositivo di Foucault, cioè comunque quando mi hanno proposto questo libro mi è sembrato molto, molto divertente. Poi è partito in realtà da una conferenza in cui parlavo di tante altre cose, più sull'underground, sulla parte del fumetto underground, sulla parte che più insomma conosco, in cui ho fatto un'osservazione che non piacque a Luca Raffaelli che era presente, e disse ah, dobbiamo discutere questa cosa perché non sono d'accordo. E mi diede a leggere un libretto che aveva scritto lui, che si chiama Il Fumetto, pubblicato dal Saggiatore, che è stato la base poi di questo lavoro. Che ho detto, guarda, anche io non sono d'accordo con quello che scrivi, però hai scritto un sacco di cose molto belle in quel libro. E se lo rielaboriamo insieme, se ci mettiamo, se andiamo a cercare no, una linea comune tra quello che penso io e quello che pensi tu, ho detto, figata, figata, abbiamo messo questo libro e Carocci l'ha pubblicato. E quindi siamo trovati un libro che in qualche modo ha un suo pubblico, cioè ha già una determinazione, vuole essere un libro utile a quegli studenti di scienze delle comunicazioni, universitarie, che hanno bisogno di uno strumento che apra delle finestre sul mondo del fumo. Innanzitutto è stato molto tagliato perché era più lungo, invece il formato di questi libri, anche quello è molto determinato, sono libri agili, che hanno una loro... Anche se è molto scritto. Esatto, è molto tagliato, cioè considera che era un libro che aveva 100-150 mila caratteri in più. Cioè, praticamente è quasi il tutto. E poi piano piano, facendo un lavoro anche doloroso di taglio, di parti che avremmo voluto tenere, eccetera, abbiamo tolto tutto quello che potevamo sfrondare, insomma. Quindi comunque è molto concentrato sulla storia del fumetto europeo, americano e giapponese. Quindi non ha una visione globale, diciamo, con tutte le micro storie del fumetto che sono all'interno di tutte le redazioni locali. E però si focalizza su un fatto, che è il fatto che il fumetto richiede un'attività percettiva, come dice uno studioso americano, che coinvolge non solo la visione, la lettura, i sensi, insomma, che normalmente consideriamo, ma proprio anche il tatto, il fatto di tenerlo in mano. Uno degli elementi che caratterizza un fumetto, infatti non c'è una sezione in questo libro, una sezione sul fumetto digitale, un po' anche provocatoriamente, ma anche proprio per questa idea, perché lavoriamo proprio sui formati del fumetto, sull'idea di come il fumetto nel corso della storia dei suoi formati abbia mutato per esigenze industriali alle volte, oppure per l'autoproduzione, perché i formati autoprodotti sono parte della storia del fumetto dall'inizio. Questa è un'altra scoperta un po' interessante che abbiamo fatto con questo libro. Comunque sono legati a delle narrazioni, ogni produzione ha una sua narrazione e quindi in qualche modo le due cose vanno di pari passo. Nell'online si apre un campo che tutto sommato non è già manco più tanto nuovo, quindi potrebbe essere studiato, però che in qualche modo esulava da questa visione. Anche il libro comunque si ferma al 2015 come tipo di mappatura, non andiamo oltre il primo libro di Zero Calcare, diciamo. Forse citiamo Cobane Colli del 2016, insomma, comunque le prime cose. Ma questo perché volevamo in qualche modo appunto focalizzare su questo aspetto, da una parte artigianale, dall'altra industriale, della produzione dell'oggetto fumetto, che è un oggetto culturale da un lato, ma è anche cultura materiale, è anche un oggetto che si fa facendo, chi fa le fanzine lo sa benissimo. Anche per questo noi pensiamo che sia poi vivo tutto questo panorama indipendente, underground, eccetera, che è fatto di cose concrete nel fumetto, che tutto sommato in una civiltà sempre più digitalizzata stranamente va in controtendenza e mantiene una sua forza. E quest'arte, secondo i vostri rispettivi punti di vista, cosa rappresenta? Innanzitutto, infatti, bravo, cioè il problema è proprio quello, tanto che nell'introduzione lo diciamo subito, cioè c'è stata una stagione in cui il fumetto veniva definito, no? La storia della critica del fumetto è una storia molto interessante, c'è un saggio di Lorenzo Di Paola che è proprio una cartografia della critica del fumetto, si chiama L'inafferrabile medium, dove lui analizza un po' tutta la storia di questa cosa, è un libro molto, molto bello, lui è un bravissimo studioso. E quello che viene fuori, e che condividiamo con lui nella visione, è che il fumetto innanzitutto è un medium, cioè una cosa che ha a che fare sì con la produzione artistica, ma anche con la comunicazione, certo, nel raccontare storie. Usa sicuramente immagini, parole e la sequenza, però nessuna di queste cose è fondamentale. Ci sono fumetti senza parole, ci sono fumetti dove la sequenza è messa in discussione perché magari si insiste sul tempo o sulla compresenza, sullo stato delle cose, ma magari sono sulla presenza, quindi spaziano nel tempo come vogliono. Ci sono dei fumetti in cui le immagini sono trattate in maniera completamente diversa, quindi sono più descrittive, meno descrittive, più iconiche, simboliche. Non dico che si riducono a zero, ma ci sono dei casi di immagine quasi prossima allo zero, no? Pensa a, ma anche dai nostri, non mai come mie, cioè persone che veramente fanno lo scarabocchio, la cosa più piccola che ci sia. Quindi c'è un mondo in cui tutte queste caratteristiche si spostano anche molto e quindi definirlo è molto difficile, tanto che definirlo alla fine è una cosa che abbiamo abbandonato, cioè non abbiamo pensato di dare una definizione, ci siamo basati anche lì su una ricerca di una critica giovane che è Karen Kukkonen del Nord Europa, che individua un carattere molto interessante sulla percezione e dice la percezione è un'attività del corpo, cioè una cosa che si fa. E anche quella ci aiutava, no, nel nostro ragionamento. E quindi pensiamo che il fumetto richieda, e questa è una delle attività in più rispetto a quelle classicamente studiate nel fumetto, quella che evidenzia la Kukkonen, ed è il fumetto è un'attività che richiede una cosa che si chiama embodiment, cioè l'impersonificazione, sia da parte dell'autore, che in qualche modo immagina di stare dicendo della pazienza, per disegnare un albero devi essere l'albero, no? Devi impersonare le cose che fai, sia del lettore, il quale in qualche modo infila questi personaggi come delle maschere e gli dà la propria di corporeità. Quindi è uno scambio tra due corpi assenti attraverso lo specchio dell'immagine, come se si riflettessero. Io autore mi rifletto nello specchio del fumetto e tu lettore ti rifletti in quello specchio, e il fumetto è questa superficie di colloquio impossibile fra di loro. Se pensi, però, è anche una delle caratteristiche alla base, che ne so, della società dello spettacolo, quando dice che le relazioni sociali non sono più relazioni che sono tra corpi, ma sono mediate dall'immagine. Il fumetto nasce lì, nasce proprio quando la società dello spettacolo si afferma. Quindi quando, come diceva Greenberg, agli operai rimane tanto tempo libero, e questo tempo libero viene riempito con un'arte che è un'arte in qualche modo di scarto dell'arte della borghesia, che si rifugia nell'arte astratta, e gli dà i cartelloni, il cinema di Hollywood, di Toto Calchi. Dopodiché, che il fumetto sia un'arte minore o sia un'arte maggiore non è una cosa che ci interessa, è letteratura, probabilmente arte, probabilmente ha a che fare, è stata condizionata molto dallo sviluppo del cinema e del teatro. L'impatto ha un forte legame con il cinema, che già di per sé racchiude varie arti. Certo, esatto, le arti del Novecento sono arti sincretiche. Il fumetto in quanto tale viene poi inventato in realtà alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, come forma proprio narrativa in Europa, più che in America, in Ginevra, in Inghilterra, comunque viene sperimentato tanto nell'Ottocento, prima di sbarcare in America sui grandi quotidiani. Però il vero grande impatto ce l'ha lì, tant'è vero che si dice che il fumetto nasce con i quotidiani, nasce con gli Hello Kitty, che non è assolutamente il primo personaggio di fumetti, ma è quello che gli dà, no, la disputa fra Ernst e Pulitzer si svolge intorno al ruolo che questo personaggio ha sui grandi quotidiani. Dalle vignette alle strisce. Dalle vignette alle strisce, esatto, sì, dall'immagine ironica che era... Book, riviste inglesi, no? Che puntavano molto sulla vignetta, la striscia che finisce il quotidiano, e poi dalla striscia al comic book, che è un altro tipo di formato, è una raccolta inizio di strisce, anche Tex, se vuoi un comic book, è la raccolta di tre strisce montate insieme, c'è una pagina di Tex, e poi dal comic book all'oggetto più stravagante, che è il graphic novel, che noi abbiamo scelto di chiamare con l'articolo il, ma insomma ci può chiamare pure con l'articolo la, a seconda se uno dà rilievo alla parola novella italiano o novel all'inglese. Però diciamo il graphic novel in realtà non è un vero e proprio formato, in quanto spazia nei formati, perché mentre alcuni formati sono standardizzati perché sono industriali, il cartonato, il comic book eccetera, il graphic novel è un formato lasciato all'autore. In realtà il vero grande cambiamento del graphic novel è il passaggio dalla centralità del personaggio alla centralità dell'autore, che alle volte rappresenta sé come personaggio, ma è in realtà l'autore che si mette al centro della narrazione e quindi decide formato, cadenza, ritmo, pagine, eccetera. Questo libro è proprio uscito 2 giorni fa, che è un graphic novel di Marco Corona, autore romano d'adozione, ma insomma torinese, astigiano, autore di nascita, è un libro che smonta completamente proprio tutti i concetti sia di fumetto che di graphic novel, perché è quasi un film offuscato, un film fatto su pellicola sgranata, quindi tutto con questo retino troppo grosso, disegnato anche male, è quasi un film che si rifà al cinema francese degli anni 60, insomma tutto smontato, che è un ricordo un po' tra essere bambini e l'essere invece adulti di una villa abbandonata, ed è veramente qualcosa a cui è difficile dare un ruolo, che è perfettamente una graphic novel, cioè è proprio quel punto di svolta del fumetto in cui la narrazione è veramente nelle mani dell'autore, quindi può anche sfasciare proprio il meccanismo fumetto quanto tale. Per saperne di più ci lasci tutti i riferimenti? Editore Carocci, prezzo 12 euro. Che cos'è un fumetto? Un saluto e un ringraziamento al coautore Valerio Bini. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.